America 24 di Mario Platero. In the United States, I've set a goal of cutting our deficit in half by 2013. A number of our European partners are making difficult decisions, but we must recognize that our fiscal health tomorrow will rest in no small measure on our ability to create jobs and growth today. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, sono appena rientrato da Toronto, dove si è tenuto il vertice G8-G20 e avete sentito il presidente Obama con una dichiarazione alquanto aggressiva e sorprendente. Entro il 2013, ha detto il presidente, ridurremo il nostro disavanzo pubblico del 50%. Alla fine è questa forse la novità più importante emersa in questo vertice, un taglio across the board delle spese sottoscritto da tutti i paesi membri. Ecco, dobbiamo chiederci se questo è conciliabile naturalmente con l'altro obiettivo, quello cioè di difendere a breve la crescita, perché siamo arrivati a questo vertice con una battaglia fra Washington e Berlino, con un attacco della Casa Bianca contro la Merkel, con polemiche a non finire. Ecco, come si riuscirà a raggiungere questo obiettivo? Sono obiettivi conciliabili, quello della crescita e quello di tagliare la spesa? In teoria non lo sarebbero, perché nel momento in cui si dice abbiamo bisogno di maggior sostegno a questa crescita, c'è il rischio di un double dip, c'è il rischio di rientrare in recessione, abbiamo visto i mercati instabili. Ecco, all'improvviso si dice taglieremo del 50% il disavanzo pubblico. Sentiamo come ha cercato di riconciliare queste due apparenti contraddizioni il presidente Barack Obama nella conferenza stampa di ieri notte. We agreed to balance the need for continued growth in the short term and fiscal sustainability in the medium term. Ecco, sentite qui il presidente Obama che cerca di dare un contesto a quello che si deve fare, distingue tra la crescita a breve, la necessità di continuare a perseguire politiche a breve per sostenere una crescita che in questo momento sembra dare qualche problema, ma allo stesso tempo con politiche di forte responsabilità fiscale nel medio termine. E dunque l'interrogativo, si abbandona una politica di stimolo per la crescita, diventa un finto interrogativo, perché in un complesso equilibrio temporale, alla fine il compromesso fra Washington, che chiede ancora misure espansive, e Obama in queste dichiarazioni continua a puntare sulla necessità di sostenere l'occupazione, del rilancio dell'occupazione, non si può abbassare la guardia, il rischio è di così sprecare tutti gli sforzi che si sono fatti finora se improvvisamente e subito si passerà a misure restrittive. Dunque questa posizione di Washington e quella di Berlino, che invece chiedeva misure restrittive per evitare una nuova enorme bolla finanziaria, alla fine il compromesso, come sempre succede, è nel mezzo. A breve, quest'anno, l'anno prossimo, chi ha margini per formulare politiche espansive, chi ha ancora problemi di crescita asfittica, la Germania per esempio, e non è nel mirino dei mercati come Grecia o altri paesi europei. L'altro giorno il segretario al tesoro Geithner aveva menzionato ad esempio la Spagna come esempio di mercato fragile. Ecco, chi non ha dei problemi farà del suo meglio per evitare che la crescita si avviti su se stessa. Gli altri faranno quello che possono. Ecco che interviene a questo punto il parametro di medio termine a 4 anni. Entro il 2013, e secondo me questo è un obiettivo molto aggressivo, ci si impegna nel contesto del G20 a una riduzione del 50% del disavanzo pubblico. Beh, insomma, sulla carta sembra un'impresa colossale. Come ci si arriva? Beh, ci si arriva tagliando le spese, aumentando le tasse. Questo è il normale processo. E dunque un avvertimento di questo genere potrebbe creare preoccupazioni sui mercati. Ricordiamolo, da una parte i mercati sono rassicurati dal fatto che ci sia una responsabilità fiscale di medio-lungo termine. Dall'altra però sono anche preoccupati dagli strumenti che possono essere utilizzati per raggiungere quegli obiettivi. E dunque tasse e riduzione di spese. E a naso dunque potrebbe essere una brutta storia. Vedremo poi come reagirà il mercato americano all'apertura, però ovviamente c'è anche una terza via, la famosa terza via che riemerge un po' dappertutto, ed è su questo che puntano i grandi, e cioè entro 2 anni, se la crescita tiene, vi sarà una ripresa dell'occupazione e dei profitti aziendali, e dunque si tornerà a un flusso naturale di reddito fiscale per le casse dello Stato americano e degli altri paesi, e quindi a quel punto ecco che non ci sarà bisogno di apportare drastici tagli di spesa, non ci sarà bisogno di aumentare drasticamente le tasse, semplicemente l'economia si rimetterà in moto, recupereremo quel circolo virtuoso straordinario che abbiamo visto alla fine degli anni 90, ed ecco che i flussi fiscali contribuiranno da soli a questa riduzione. Certo, è una scommessa molto difficile, per alcuni non è necessariamente credibile. As I reiterated to my colleagues, after years of taking on too much debt, Americans cannot and will not borrow and buy the world's way to lasting prosperity. Ecco, Obama nella conferenza stampa passa a un'argomentazione piuttosto aggressiva, oddio, l'ha detto anche altre volte in passato, ma mai così chiaramente. Dice: ho parlato coi miei colleghi e gli ho chiarito che l'America di fatto non sarà più il locomotore degli altri paesi. Non andremo a indebitarci come abbiamo fatto in passato per acquistare, per importare, per aiutare gli altri paesi ad esportare. È una storia finita. D'ora in avanti saremo noi a competere per le esportazioni a livello globale, saremo noi a competere per la creazione e la formazione di nuovi posti di lavoro nel settore dell'esportazione. Devo dire, questo è un avvertimento piuttosto importante, molto franco, che giunge dal presidente americano. Ha dedicato in questa conferenza stampa gran parte delle tematiche al commercio, ha ricordato che cercherà di sottoscrivere un accordo di libero scambio con la Corea del Sud a novembre, quando andremo a Seoul per il G20, appunto, che si terrà in Corea. Ha apprezzato e in qualche modo ha fatto capire di aver avuto lui stesso un ruolo importante, ha apprezzato la decisione cinese di rivalutare lo yuan, e in qualche modo il presidente ha fatto capire di aver avuto lui stesso un ruolo, nonostante la Cina non abbia voluto discutere assolutamente di questa sua innovazione, come se l'avesse deciso in modo del tutto autonomo. Ebbene, Obama ieri ha detto chiaramente: noi abbiamo chiesto ai cinesi di fare questa cosa, non solo, seguiremo gli sviluppi per capire di quanto poi lo yuan si rafforzerà, perché un rafforzamento debole servirà a poco. Ha persino dedicato una gran parte, una buona parte del vertice col presidente russo Dmitry Medvedev a un negoziato sulle galline. Il presidente ha scherzato su questo fatto, dice: eccoci, siamo qui a discutere della guerra sulle galline. In realtà Obama ha tenuto l'apertura del mercato russo alle esportazioni di pollame americano, un valore questo di svariati miliardi di dollari. La Russia ha acquistato 50 miliardi di dollari di aerei americani, Obama sottolinea 40.000 nuovi posti di lavoro. Dunque, grande attivismo con, devo dire, un messaggio molto chiaro per noi. E a questo punto l'America prende atto di questo nuovo modello competitivo, delle sfide che giungono dalla Cina, dall'India, dal Brasile, dai paesi emergenti, e dice che si adeguerà e reagirà. E quindi c'è per l'Europa un messaggio molto chiaro, implicito, perché se vogliamo noi stessi restare competitivi in questa dinamica dobbiamo muoverci, e muoverci rapidamente, dobbiamo ridurre le rigidità strutturali e cambiare poi quella mentalità che vediamo troppo spesso emergere, beh, un po' dappertutto in Europa, ma poi soprattutto nel nostro paese. Negli ultimi giorni abbiamo visto queste polemiche, secondo me, devo dire, di secoli fa, su Pomigliano, in cui ci si arrocca sul passato senza capire che tutti, appunto, anche l'America in questo caso, scendono in campo non più per comprare, come hanno fatto per molti anni, soprattutto l'America, quando negli anni 90 e poi negli anni 2000 si indebitava, la sua popolazione si indebitava per comprare a buon mercato, ma per vendere. La nuova parola d'ordine da Toronto, dunque, un po' nascosta, è rilancio competitività. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Non possiamo che dedicarla a Michael Jackson. Venerdì c'è stato l'anniversario della sua morte e nel fine settimana ci sono state una serie di ricostruzioni in televisione molto commoventi. Devo dire, ne ho seguita una su CNN che era particolarmente commovente, interessante, perché ricostruiva quasi minuto per minuto l'ultimo giorno di vita di questo straordinario cantante, e dunque dedichiamogliela. Anzi, in uno di questi spaccati si vedeva il fratello di Michael Jackson che diceva: non posso credere, non ci saranno più i Jackson 5. E dunque non solo Michael Jackson, ma i Jackson 5 a Michael dedichiamo I Want You Back. We wish we could have him back. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.